Europa 24. Ministri degli esteri riuniti a Bruxelles, sul tavolo il rinnovo delle sanzioni economiche alla Russia. Saranno i capi di Stato e di Governo a decidere il rinnovo delle sanzioni economiche contro la Russia. Secondo il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, nessuno dei 28 paesi dell'Unione è contrario. La precisazione giunge dopo che la settimana scorsa il governo italiano ha frenato il rinnovo delle misure, bloccandone l'iter che doveva essere completato a livello diplomatico. Roma ha chiesto che la decisione formale fosse presa dai leader. I motivi della scelta non sono mai stati chiariti. Evidentemente il governo italiano crede sia necessario avere una discussione politica su una questione che preoccupa il mondo imprenditoriale e che potrebbe apparire datata, tenuto conto del tentativo di collaborazione tra la Russia e l'Occidente nella lotta contro lo Stato islamico. Ciò detto, le sanzioni, in scadenza il 31 gennaio, furono decise a causa del coinvolgimento della Russia nella guerra civile ucraina e dell'annessione della Crimea alla Federazione Russa. Finché l'accordo di Minsk, che prevede un cessate il fuoco nell'Ucraina orientale, non sarà applicato pienamente, il rinnovo delle sanzioni economiche contro Mosca appare inevitabile a un gran numero di diplomatici. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E oggi sempre a Bruxelles c'è anche il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca, dedicato alla gestione degli stock ittici in Europa per il 2016. I pescatori italiani attendono da questo incontro il via libera ad un ulteriore aumento del 20% della quota di tonno rosso per il prossimo anno. La pesca al tonno rosso interessa molte marinerie italiane nell'Adriatico, in Campania e Sicilia. Non c'è dubbio che se dovessimo intensificare l'utilizzo dei nostri strumenti per raggiungere il nostro obiettivo di stabilità dei prezzi, lo faremo. A parlare così il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, oggi a Bologna. Draghi ha fatto sapere anche che per sostenere fino in fondo la fiducia è importante non perdere di vista la necessità di completare la nostra unione monetaria, anche quando fronteggiamo priorità più urgenti. È calato il sipario a Parigi sulla conferenza sul clima. Qual è l'obiettivo dell'Europa nell'ambito della COP21? Ce lo spiega l'eurodeputato Giovanni La Via, presidente della Commissione Ambiente, Sanità e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo e capo della delegazione a Parigi. Sentiamolo al microfono di Anna Marino. Si pone in primo luogo l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni dei gas a effetto serra rispetto al 1990. L'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica del 40% e di arrivare con le rinnovabili a una produzione del 30% dell'energia complessiva necessaria al sistema Europa, con una serie di interventi concreti. Quali? In primo luogo regolamentare meglio il mercato della CO2 in modo tale che ci possano essere più imposte per chi inquina, cioè che possa valere realmente il principio inquinatore-pagatore. Ma i prossimi obiettivi e i tempi quali sono? Intanto è la ratifica nel prossimo anno da parte di tutti i soggetti, quindi da parte di tutti i 195 paesi, e quindi in Europa lo approveremo in Parlamento europeo. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.